Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la radio dei senza voce e di chi se la sente. Chi se la sente può contribuire anche a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56, 00185 Roma, oppure consultando il sito internet della radio ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione Sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema. Le informazioni le trovate sul sito della radio, alla voce Trasmissioni Visionari, o anche sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Sulla scaletta trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 20 marzo, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana e anche l'archivio del 2013 e del 2014, quest'inizio del 2014. Puntuali come ogni anno Alessandro D'Urso, direttore della 11ª edizione di Cortoons, che quest'anno si sposta all'auditorium del Goethe Institute da oggi fino al 23 marzo. Alessandro, ben ritrovato. Grazie a voi per aver invitato, come al solito, da 11 anni, devo dire. Eh sì. E quando ce la facciamo, spesso e volentieri, veniamo anche a trovarti. Allora, quest'anno chiaramente chiusura del Palladium, questo ha comportato una serie di problemi non solo tecnici. Dici un po', Alessandro. E non solo a noi, ovviamente, chiaramente, perché diciamo il Palladium era un punto di riferimento sia per la città sia per la Gabbatella. Va bene, è andata come è andata. Quest'anno siamo all'auditorium del Goethe Institute, che è in via Savoia 15, diciamo nei pressi di via Salaria, piazza Fiume. È un auditorium molto bello e prestigioso, quindi siamo molto contenti di questo. Il festival inizia oggi e alle 18, finirà domenica alle 24, e come al solito ci sarà un programma fitto e ricco di appuntamenti e di eventi. Vuoi che ne segnali qualcuno? Certo. Certamente. Allora, diciamo che domani avremo alle 19.40, a parte che tutti i giorni c'è animazione, c'è il solito programma, diciamo così, di animazione alle 30.40 alle 18 di tutti i giorni per mezz'ora. Mi piace far vedere dei cartoni animati degli anni 30-40 che difficilmente qualcuno ha visto sul grande schermo. Certo. E domani in particolare avremo una proiezione di un film, un lungometraggio italiano molto bello, si chiama L'arte della felicità di Alessandro Rack, interamente girato, prodotto, scritto e disegnato a Napoli, quindi una cosa piuttosto unica nel panorama dell'animazione. Sarà preceduto da una presentazione di Francesco Alò con il regista, il produttore, insomma si parlerà di animazione in generale. Questo è l'evento clou di domani, venerdì. Sabato invece avremo il seminario alle 18.30, un seminario sugli effetti visivi low cost, quindi come dire, abbastanza in tema con quello che viviamo tutti i giorni, cioè cercare di fare arte con un budget minimo, quindi un seminario di Pierfilippo Siena e Palantir Digital, che sono il team che lavora con i Manetti Brothers. Sì. E dopodiché la proiezione di Beauty, che alcuni di voi avranno visto in rete, quel meraviglioso lavoro di video arte di quell'artista italiano Rino Stefano Tagliafiero, che ha praticamente animato dei quadri, una sequenza di quadri straordinari, conosciutissima, con grazia e con gusto. Vi consiglio di venirlo a vedere. E sempre sabato Alessandra Celletti, pianista talentuosissima, sono tra i nostri corti, e domenica invece l'anteprima nazionale del lungometraggio di Bill Plimpton, nostro caro amico, che si chiama Citin. È un lungometraggio uscito da poco, mai visto in Italia. Avremo insomma la possibilità di vederlo all'auditorium del Palladium, penso un po' all'auditorium del Goethe, domenica alle 20. Per il resto dalle 18 alle 24 animazione a tutte le ore e tutte le sere alle 9 i corti in concorso, diciamo, sono il clou del nostro festival. Alessandro, a un anno di distanza, ti chiedo a livello un po' più generale, le nuove dal mondo dell'animazione che secondo te rappresentano un po' una sorpresa? Allora, le nuove dal mondo dell'animazione, prima di tutto c'è un nuovo modo, diciamo, di produrre ed è il crowdfunding. Sì. A Cortunza anche, diciamo, abbiamo chiuso ieri all'ultimo giorno, diciamo, al 100% la nostra mission di crowdfunding, quindi sono molto contento, approfitto per ringraziare tutti i riser, ma molti prodotti, faccio un esempio, Bill Plimpton, il lungometraggio Chitin, l'ha prodotto interamente realizzandolo in crowdfunding. Chiaramente parliamo di una piattaforma americana, quindi con volumi, numeri molto più alti, e quindi il lungometraggio e anche diversi cortometraggi, diverse produzioni cominciano ad essere fatte in crowdfunding. Sì. C'è mancanza di produttori e soprattutto di liquidità, quindi si ricorre alla rete, e questo, diciamo, è il dato di fatto per quanto riguarda la produzione. Per quanto riguarda invece l'animazione, devo dire che i paesi, diciamo, più prolifici, Francia, Germania, Canada, Israele, Stati Uniti, diciamo, come al solito la fanno, diciamo, un po' da produrre numericamente, ovviamente. Mm-hmm. Che poi qualitativamente, diciamo, ogni paese ha la sua cifra stilistica, ogni regista ha la sua cifra stilistica. Bene, invece al di là della disavventura Auditorium, che bilancio fai di questo festival che è una tua creatura ed è giunta a quest'11ª edizione, Alessandro? Ma guarda, il bilancio è come sempre positivo, nel senso che anche se appunto c'è questa disavventura del Palladium, i segnali che abbiamo avuto fino ad oggi che inizia il festival sono molto molto incoraggianti, nel senso che c'è un sacco di gente che ci sostiene, c'è tantissima gente che verrà comunque, anche se l'auditorium è più piccolo. Infatti io consiglio, per chi volesse venire, a parte di chi troverà tutto il programma su www.cortoons.it, è anche possibile prenotare i nostri eventi come i film, la sonorizzazione, il seminario, scrivendo a info@cortoons.it. essendo l'auditorium un po' più piccolo del Palladium, insomma, conviene prenotare il proprio posto in sala per poter essere certi di assistere, come dire, alle proiezioni. Ma vedremo come va in questi giorni, ma insomma i segnali sono tutti molto positivi. Bene. Alessandro, ricordiamo l'indirizzo del Goethe Institute? Assolutamente, che è in via Savoia numero 15, ed è, diciamo, via Salaria, all'altezza di Piazza Fiume. Questo più o meno è il nostro riferimento. Bene, da oggi fino al 23 marzo, 11ª edizione di Cortoons, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao. Alessandro D'Urso, direttore di questa 11ª edizione di Cortoons. Allora, ne avremmo dovuto parlare la scorsa settimana, ne parliamo oggi un po' in dirittura d'arrivo, comunque con Luigi Scaglione, regista del cortometraggio Il principio del terzo escluso, che è online sul canale YouTube di oltrecielo.com fino a domani 21 marzo. Luigi, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Di cosa si parla? Cos'è l'argomento di questo lavoro? Il principio del terzo escluso nasce perché vuole raccontare un po' le ipocrisie che attanagliano la nostra società, quindi nello specifico della marijuana, che è un argomento abbastanza gettonato, comunque è all'ordine del giorno in questi ultimi anni, e vuole far rendere conto la popolazione italiana, perché quello che gira intorno alla marijuana è un discorso molto ipocrita, cioè non si può vendere, non si può acquistare, però poi alla fine chi ne paga le conseguenze è un ragazzo che semmai, perché si fuma uno spinello, perché non so, gli piace, perché fa delle cose che probabilmente vuole fare, poi in realtà la sua vita cambia all'improvviso e diventa un inferno dovuto a delle pratiche burocratiche che ti portano a una serie di conseguenze. E tutto questo perché c'è una legge che agevola determinati meccanismi. Sì. Oh, ecco, mi piaceva questo progetto, Luigi, a partire proprio dal titolo, perché fa riferimento a chi si ritrova stritolato tra due forze, la forza repressiva dello Stato e la forza poi che determina tutte le sorti del commercio delle droghe, ossia la criminalità organizzata, che è poi la seconda forza in campo. Il terzo è chi è il consumatore, ma che ecco, come dicevi te, per un non nulla si può ritrovare in un inferno. Sì, da un lato infatti lo Stato e dall'altro la camorra, e il discorso è alla base, cioè nel senso che lo dice pure all'interno nel suo ragionamento, nel suo monologo, nella sua riflessione sulla società. Dice anche le sigarette, no, alla fine hanno, diciamo tra virgolette, fanno male alla salute, fanno male, e la stessa cosa sarebbero praticamente le sostanze stupefacenti, quindi in questo caso la marijuana, l'erba pura. Però qualcosa è cambiato, qualcosa c'è stato di differente, e allora per non agevolare certi meccanismi dice: perché si va avanti in questo modo, visto che poi queste sostanze vengono un po' trattate con cose chimiche, eccetera, e sì, chi ne paga le conseguenze? Alla fine poi nel cortometraggio si vede, è proprio la popolazione, sono proprio le persone. Infatti alla fine del video, del cortometraggio, quindi del film, ci sono dei riportati, degli articoli di giornale di alcune storie vere, che poi in realtà erano state trovate queste testimonianze successivamente alla scrittura della sceneggiatura, ma che hanno dato molto valore a quello che era il progetto, ed è stato quasi una manna dal cielo di dire sì, si deve fare questa denuncia, si deve fare questo lavoro, perché bisogna riflettere. Bisogna riflettere su questi argomenti. Ecco, proprio a questo proposito, Luigi, volevo chiederti qual è stata la molla che ha fatto scattare il progetto di questo cortometraggio, e poi l'input che hai deciso di dare a questo lavoro, per oltre alla denuncia, secondo te quali sono le soluzioni? Questa è una bella domanda, è difficile la risposta. Le soluzioni non forse probabilmente non sta a noi decidere quali sono le soluzioni. Sì. Ci sono tante persone che sono attive su questi argomenti e che si dibattono ormai da anni, ma molti anni, su questa ipocrisia. Probabilmente lo stile olandese è una testimonianza di come determinate cose possono andare diversamente, e certi meccanismi non agevolare appunto l'arricchimento, no, di qualcuno piuttosto che di altri. L'input è stato dato proprio da un ragionamento appunto su perché la cosa strana è se ne fa uso costante, si sa che se ne fa uso, però non se ne potrebbe. Allora perché tutto questo, e perché avviene? E allora è venuto spontaneo dire: cerchiamo di ragionare su queste ipocrisie e mettere un interrogativo. E allora il nostro era non dare una soluzione, quindi una risposta al problema, e quindi trovare noi la soluzione, era soprattutto suscitare un interrogativo, un contributo al dibattito, sì, un dibattito a riguardo, sì. E dire: ragioniamo, questi sono i fatti, questo succede, questa è la realtà, e non ci prendiamo in giro, che non è diversa da com'è. Tant'è vero che le storie ne hanno testimoniato, le storie che appunto sono riportate su questo articolo, che è del 2010, cioè sono 4 anni fa. Non è ieri. Sì, sì. Luigi, la decisione di metterlo online su oltrecielo.com, questa forma di diffusione anche che avete scelto? Sì, sono anni ormai che l'abbiamo, in realtà non è stato finito da 2 anni il prodotto, ha fatto il giro dei festival, e ad un certo punto, visto che l'argomento diventava sempre, se ne parlava sempre di più, abbiamo deciso di metterlo online, e quindi di condividerlo con chi potesse essere interessato, e capire un po' quello che poteva suscitare. Però ha voluto fare una scelta di metterlo online solo 7 giorni, ed era una scelta quasi di protezione di questo lavoro. Ora non so se è giusto o sbagliata, però anche provocare le persone a dire ok, noi vi diamo questo spunto di riflessione, vediamo se voi lo accogliete, vediamo se lo fate vostro e se effettivamente ci credete a questa cosa. Se quando non ci sarà più online queste persone spariranno e allora ok, è andata, l'hanno visto e tutto qui. Se queste persone probabilmente invece si faranno sentire dicendo no, perché l'avete tolto e no, continuiamo questa cosa, allora sarà diverso, significa che qualcosa si sta muovendo. Ecco, proprio a questo proposito, Luigi, volevo chiederti che tipo di risposte state avendo con questa scelta online che insomma è già partita da qualche giorno. Le risposte sono positive, però io parlo molto chiaramente, per un cortometraggio che ha già i primi 30 secondi solo di cartelli di introduzione, perché è fatto per una sala, per una sala cinematografica, diciamo anche una piccola sala, ma è fatto per una sala, quindi per una produzione consapevole di chi si siede su una poltrona e cerca di vedere un cortometraggio, un film, un prodotto comunque di un certo tipo. Quindi un prodotto fatto per una sala, messo online, che ha questi primi 30 secondi comunque di vuoto, di nulla, e riuscire ad avere, almeno ieri eravamo più a 3500 visualizzazioni più o meno, noi che non abbiamo un viral molto forte, non siamo potenti sul web, quindi non abbiamo mai pensato a questi meccanismi, non ce ne è mai interessato più di tanto, per noi è una grande soddisfazione vedere soprattutto la risposta di messaggi e quando condividono il video di grandi grandi riflessioni. Ieri appunto qua ne ho letti alcuni che lasciano con grandi citazioni anche a Borsellino piuttosto che ad altri grandi, e citavano questo cortometraggio come appunto come spunto di riflessione, lo condividevano, e qualcuno infatti diceva perché solo fino al 21, questo dovrebbe essere messo online per sempre, oppure qualcuno che ha scritto dovrebbe essere condiviso in tutte le università e fatto dei ragionamenti. Mm-hmm. Quindi una piccola soddisfazione è stata fino ad ora quello che sta accadendo. Vedremo che succede nei prossimi giorni, è un mistero, sarò curioso. Senti, il titolo da dove viene? La verità è che ogni tanto quando faccio queste ricerche di questi lavori poi iniziano dei meccanismi che non sai dove ti portano, e una notte stavo ragionando tra i vari, stavo facendo delle ricerche appunto su quelle che erano alcune cose che mi interessavano di documentazione per non sbagliare, perché poi quando scrivi determinate cose del genere devi essere abbastanza documentato, e così a un certo punto uscì fuori appunto il teorema del principio del terzo escluso, quindi pio non pi, vero non vero, non esiste un'altra soluzione, e pensai da un lato effettivamente ci sta la Camura e dall'altro lato ci sta lo Stato, e quindi fu una cosa quasi un connubio perfetto, e pensai che era un titolo, e quello era il titolo per non sarei riuscito a dare altri titoli. Senti Luigi, in chiusura diamo di nuovo i riferimenti per saperne di più online. Sì, allora sì, per vedere appunto il cortometraggio basta andare sul canale appunto o sul sito www.oltrecielo.com o sul canale online di YouTube di Oltrecielo ABPA, che sarebbe Audio Visual and Performing Arts, oppure sui nostri appunto canali di Facebook o Twitter, sempre scrivendo Oltrecielo, ma basta scrivere su Google Oltrecielo e compariamo. Ci Benissimo. Siamo e siamo contenti di condividere con tante persone e soprattutto con voi e con Roma, che è una città che comunque è molto aperta a determinate tematiche e discussioni. Bene Luigi, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie mille a voi, grazie ancora. Ciao, buon lavoro. Grazie. Luigi Scaglione, regista del cortometraggio Il principio del terzo escluso, online sul canale YouTube oltrecielo.com fino a domani 21 marzo. Visionari su Radio Onda Rossa. È con noi Eleonora Marino, regista del documentario La bella Virginia al bagno, che sarà al Roma Independent Film Festival il 22 marzo, se non sbaglio è sabato, sì. Eleonora, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori. La bella Virginia al bagno, chi è? La bella Virginia al bagno è un numero di imbonimento che si faceva nelle fiere di inizio Novecento, in cui c'era un imbonitore fuori che diceva: correte numerosi, venite a vedere la bella Virginia al bagno tutta nuda come mamma l'ha fatta. Quindi la gente incuriosita entrava e poi trovava un piccolo trucco, un piccolo gioco di parole che si svelava davanti a loro, e quindi usciva in fondo divertita, no? E questo racchiude un po' la filosofia dello spettacolo viaggiante. Ecco, lo spettacolo viaggiante è il tema del tuo lavoro e che ti riguarda molto da vicino. Esatto, perché la mia è una famiglia di viaggiatori. Mio nonno faceva l'acrobata nei circhi e nei teatri negli anni 20 e 30, mia mamma ha sempre viaggiato con il Luna Park e anch'io sono nata in un Luna Park, il Luneur, che forse tu conoscerai, sì. Immagino tanti ricordano, anche se ormai è chiuso dal 2008, e quindi è un mondo che conosco molto bene da una parte, ma un po' meno bene, perché comunque alla fine io non sono stata una viaggiatrice, perché i miei si erano stabiliti, quindi da nomadi erano diventati stanziali, e con il documentario cerco di riscoprire un po' le mie origini, e attraverso questa ricerca, insomma, parlo anche un po' di com'era l'Italia in quegli anni e di come si divertivano gli italiani. Tra l'altro sentivo, vedendo il tuo documentario, di questa differenza tra dritti e gagè. Esatto. Allora, i dritti siamo noi, o meglio, così si chiamano i giostrai, ma anche i circensi, no? Ma anche i finti stessi, che, esatto, che sono molti finti sono giostrai, nel senso che è uno dei mestieri che loro storicamente fanno, e chiamano tutti gli altri, quelli che non appartengono a questo mondo, gaggi o gagè, no? Sì. E quindi è sempre stata questa, è anche, insomma, c'è tutto un gergo che si usa tra circensi e giostrai, di cui questo è un piccolo esempio. Senti, visto che, insomma, è stato argomento della tua ricerca, com'è stato nel passato il mondo dello spettacolo in strada? Cosa ha rappresentato? Beh, prima era comunque uno dei pochi momenti in cui c'era l'evasione per tutti quanti, l'evasione nel senso del divertimento, no? Era uno spettacolo popolare, lo spettacolo in piazza, ma anche quando poi magari è andato a finire dentro gli sciabitò, il circo, per esempio, era comunque uno spettacolo che serviva per evadere dalla quotidianità, e dal lavoro, dalla fatica, eccetera. Poi piano piano si è sviluppato diversamente, dopo, magari anche dopo la guerra, soprattutto si sono magari messi in evidenza dei macchinari tecnologici, no? Quindi si sono sviluppati i Luna Park, per esempio, come il Luneur, che dagli anni 50 poi piano piano è diventato sempre più grande. E oggi invece i divertimenti si sono moltiplicati, quindi con le grandi multisala, con insomma le sala giochi e tutta una serie di cose che ci stanno, questo tipo di divertimento popolare più semplice ha un po' perso, se vogliamo, la sua efficacia, il suo fascino, no? Questo sì, un po' sì. Lo racconto nel mio documentario. Sì. Ecco, proprio a proposito di questo fascino, c'è un grosso alone romantico intorno a queste figure che portavano il divertimento tra la gente, nelle strade, appunto, nelle piazze. Esatto, guarda, hai colto nel segno, nel senso che quello che provo a fare io, che ho provato, che abbiamo provato a fare con il mio film, io e tutti, insomma, quelli che mi hanno aiutato e che hanno collaborato con me, era un po' andare a vedere cosa c'è dietro questo aspetto romantico, no? Dietro questa immagine così di meraviglia, di le luci, i colori, la musica, perché poi le persone è quello che vedono, però dietro c'è un mondo vero, fatto di fatica, fatto di sofferenze, anche di gioie, no? Sì, e quindi sì. È proprio quello il tentativo del documentario, mostrare un po' cosa c'è dietro all'aspetto romantico, che è solo che è quello che si vede di solito nei film, no? Perché il circo viene rappresentato così, oppure il Luna Park viene rappresentato solo come il luogo del terrore, dove succedono gli assassini, gli omicidi. Invece c'è tutto un mondo dietro. Ecco, rispetto a come è cambiato il mondo oggi in nel senso che stavamo descrivendo, oggi l'impressione, insomma, è che si sia stabilita un po' la realtà del divertimentificio. Sì, è un po' quello. Le persone, diciamo, lo subiscono un po' di più invece di esserne in qualche modo protagonisti, sì. E purtroppo in alcuni casi insomma bisogna un po' adattarsi a questo, oppure provare ad inventare delle cose un po' nuove, come insomma come fanno alcuni miei parenti, che io insomma racconto nel documentario. Non è semplice, ma ci si prova. Senti, qual è, a proposito di questo viaggio, anche nella tua storia, che bilancio ne fai alla fine? Cosa hai scoperto e come ti ha cambiato anche volendo? Ma guarda, ho scoperto che molti, perché parlando anche con le altre persone, con chi ha avuto modo di vedere il documentario e chi lo vedrà, spero, molti hanno sempre avuto la voglia di confrontarsi con la propria storia, ed è più difficile di quello che può sembrare, perché comunque devi parlare magari con i tuoi genitori, come è successo a me, no? Con mia madre, con mio padre, e quindi uno potrebbe pensare, vabbè, che c'è di più facile che intervistare tua madre? Stai lì, vai lì, la intervisti. Invece no, è proprio una cosa difficilissima, perché devi porti in una maniera completamente diversa da quella che è il tuo quotidiano, perché sì. Tu ti rivolgi ai tuoi genitori in maniera semplice, diretta, alle cose pratiche della vita, invece devi andare a scavare e magari rischi anche di tirar fuori qualcosa che non ti aspettavi. Quindi è stato un po' duro, e devo dire la verità, però allo stesso tempo alla fine, quando ci riesci, ti senti più sollevato, una persona un pochettino più completa tra virgolette, sì. Cioè che comunque hai risolto delle cose che magari prima erano più offuscate. Sì, sì, sì. Allora, sabato 22 marzo sarà in programmazione al Rome Independent Film Festival. Invece, per chi volesse saperne di più sia sulla tua attività che sul documentario La Bella Virginia al Bagno, online hai dei riferimenti? Sì, per adesso abbiamo una pagina Facebook che è La Bella Virginia al Bagno, la pagina Facebook, dove metteremo man mano insomma anche le nuove proiezioni che ci saranno nei prossimi mesi a Roma, nei dintorni, e spero anche fuori Roma. Però per adesso l'appuntamento, come hai detto tu appunto, è al Cinema Aquila alle 17 il 22 marzo, cioè sabato questo. Spero di insomma che la gente, se ha curiosità di scoprire cosa c'è dietro il mondo dei circensi e dei giostrai, che venga a vederlo. Bene. Senti Leonora, per l'immediato futuro, dicevi il calendario delle prossime proiezioni, stai già cercando un'eventuale forma di distribuzione o comunque sarà un percorso di festival? Guarda, sì, da una parte stiamo comunque cercando di avere un percorso di festival, però più che altro vorremmo fare delle proiezioni evento, nel senso di creare un po' anche delle situazioni, di fare in maniera collegata anche magari delle piccole esibizioni di artisti di strada, di circo, contemporaneo, e poi alla fine proiettare anche il documentario. Quindi questo è un po' il tentativo, e poi chissà, magari un giorno anche una televisione che voglia passarlo, così da raggiungere più persone possibili. Bene Elisabetta, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille Federico, ciao a tutti. Ciao. Elisabetta Lodoli, regista del documentario regista del documentario La Bella Virginia al Bagno, che sarà in programmazione al Rome Independent Film Festival sabato 22 marzo. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Francesco Di Cola di The Space Movies per parlare della distribuzione del film Amazonia 3D, che è in uscita in sala domenica 23 marzo. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, ci sei? Sì, dimmi, ecco. Se ti sente bene? Sì, ti sentiamo bene. Okay. Tra l'altro sono appena reduce dalla presentazione alla stampa di Amazonia 3D. Ah, c'eri anche tu. C'ero anche tu. Io. Che cosa? Allora, per chi ci ascolta, che cosa racconta Amazonia 3D? Amazonia 3D è un docufiction, quindi un'opera che unisce immagini di documentario a immagini di fiction, e la trama racconta della storia di una scimmietta che è nata in cattività a causa di un incidente aereo, precipita nella foresta amazzonica, che sarebbe il suo contesto naturale ma in realtà non ha mai sperimentato, quindi di fatto si riabitua a vivere in quello che dovrebbe essere il suo mondo, ma fino ad ora non ha mai conosciuto. E quindi lo spettatore noi con la scimmietta, attraverso il suo viaggio di scoperta, entriamo in contatto con il magnifico universo della natura della foresta amazzonica. Sì, e sì. Insieme a lei apprendiamo delle cose, incontriamo gli altri animali, viviamo nelle avventure, conosciamo il pericolo, finché poi non ci inseriamo insieme a scimmietta, appunto, all'interno con i suoi simili, all'interno del suo contesto. Sì, il sì, tutto sì, con immagini meravigliose, sia per struttura narrativa sia per realizzazione tecnica. Se hai avuto modo di vedere il film stamattina ti sarai reso conto che oltre ad essere molto coinvolgenti, ma la definizione dell'immagine altissima, l'effetto 3D davvero apporta un valore aggiunto significativo, insomma è davvero qualcosa di bellissimo. Con noi in sala c'erano, oltre a giornalisti invitati, persone di web coinvolte, ma c'era anche un gruppo di ragazzi delle scuole medie e superiori di Roma, che insomma, raccontando un aneddoto, erano anche arrivati con come dire, lo stato d'animo con cui si va magari in gita, no? Quindi molto, molto vivaci. E invece poi durante la proiezione, questa cosa ci ha sorpreso moltissimo, sono stati in un silenzio assoluto, rapiti dalle immagini e assolutamente partecipi di quello che stava avvenendo sullo schermo. Insomma, è davvero emozionante per tutti. Senti Francesco, ecco, alcune scene sono riprendere gli animali impiega chiaramente molto tempo, specialmente in questo film ci sono anche alcune scene di caccia che immagino siano piuttosto elaborate. Volevo chiederti qualcosa sulla lavorazione di questo film, se ne sei a conoscenza. Sì, stamattina il produttore che era con noi alla conferenza ci ha raccontato di alcuni stratagemmi utilizzati per poter rendere al meglio l'effetto nella maniera più naturale possibile. Ad esempio ci raccontava quello che si fa di solito, è quello di chiudere gli animali pericolosi, lui faceva il caso di un leopardo, chiudere gli animali in una gabbia con gli operatori che invece li girano attorno e riprendono mentre fare le cose. In questo caso invece si è fatto il contrario, cioè si sono dislocate all'interno della zona delle riprese alcune gabbie in cui però sono stati rinchiusi gli operatori, lasciando quindi liberi gli animali di poter fare quello che volevano nella maniera più naturale possibile. Quindi fatta salva la sicurezza per le persone che ci lavoravano, invece l'effetto è ancora più vero, ecco. Ad esempio, oppure ci raccontava di un altro caso in cui per effettuare delle riprese all'altezza degli alberi hanno costruito delle piattaforme su alberi 50 metri in cui gli operatori sono stati anche 6 giorni senza scendere. Insomma, quindi davvero uno sforzo produttivo assolutamente oltre la norma. Senti, ecco, proprio a questo proposito, che periodo hanno quanto sono durate insomma le riprese, che periodo hanno richiesto? Le riprese sono durate 6 mesi. 6 mesi. Quindi la troupe insieme con il regista, il produttore, tutta la crew è rimasta 6 mesi lì, ed è un periodo di tempo davvero lungo, considerate insomma il tempo in cui si gira un film è tra le 6 e le 10 settimane per le produzioni più importanti. 6 mesi sono un periodo lunghissimo in cui appunto poi le persone sono rimaste lì senza andare via. Oggi ci racconta il produttore che durante questo tempo gli è anche nato un figlio, per cui insomma è successo di tutto. Sì, ma ripeto, lo sforzo produttivo è qualcosa che normalmente non si ritrova in altre opere di questo genere. Oh Francesco, il film mi è sembrato un grande atto d'amore verso la natura lontana dalla presenza umana, e infatti c'è una parte verso il finale che ricorda molto per esempio un film di qualche decennio fa, La foresta di Smeraldo. E, in questo senso l'Amazzonia e la foresta tropicale brasiliana rappresenta uno dei polmoni di questo pianeta. E leggevo giorni fa che in Brasile la deforestazione è diminuita sensibilmente, però continua comunque a rappresentare un grosso problema. Beh, assolutamente sì. Guarda, noi ci siamo innamorati dell'opera innanzitutto per come dire, la sua qualità cinematografica, perché ovviamente poi è il primo elemento che prendiamo in considerazione quando proponiamo agli spettatori delle cose da vedere. Ovviamente in questo caso qui c'è anche un tema diciamo di carattere più grande, sul quale abbiamo poi trovato, in realtà c'è stata una sollecitazione reciproca tra noi e il WWF, un'opportunità di collaborazione importante. Il WWF invece, oltre al valore cinematografico, naturalmente ha riconosciuto invece quest'altro elemento legato all'interesse e alla tutela per la natura, per cui avevano già premiato il film durante l'ultima mostra di Venezia e sono stati ben contenti di scoprire che c'era un distributore italiano interessato a portarlo nel cinema in Italia. Con questa occasione abbiamo avviato appunto con una partnership, ci stanno aiutando moltissimo in comunicazione, faremo delle cose con loro, insomma stiamo cercando poi di comunicare, ripeto, al di là della qualità intrinseca del prodotto stesso, ma anche questi temi che poi appunto vanno al di là della semplice opera cinematografica. Con loro stiamo strutturando un progetto grazie al quale vorremmo portare in sala ogni anno almeno 3 o 4 di opere di questo genere qui. In Italia, come sapete, non è molto semplice avere l'occasione di vedere documentari di questo tipo in sale cinematografiche, soprattutto in sale cinematografiche di un certo tipo e soprattutto con diciamo una dimensione di distribuzione degna di un film importante, perché Amazzoni uscirà in circa 100 sale in Italia. Noi vorremmo proseguire questo obiettivo perché riteniamo che insomma l'Italia meriti l'opportunità di vedere opere di questo tipo e appunto insieme con il WWF ci siamo dati l'obiettivo di lavorare per acquisire i diritti dei documentari più importanti che vengono prodotti nel mondo e portare gli spettatori italiani con una frequenza sicuramente maggiore di quella che si verifica oggi. Bene Francesco, allora io ti ringrazio, ricordiamolo, Amazzonia 3D in uscita in sala domenica 23 in 100 copie in tutta Italia, a risentirci presto a questo punto. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata. Francesco Di Cola di The Space Movies per parlare della distribuzione appunto di Amazzonia 3D. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sia sul sito della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ritroviamo Anastasia Plazzotta di Feltrinelli Real Cinema per parlare del documentario L'Impostore, in uscita in sala oggi giovedì 20 marzo. Anastasia, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Oh. Mi sentite? Sì. Okay, parliamo anche, cominciamo con quest'idea di uscire in sala con i documentari della vostra collana. Allora, sì, in effetti questo inaugura una serie di documentari che manderemo in sala, perché riteniamo ovviamente che nella scelta del film della nostra collana, proprio uno dei criteri fondamentali è la costruzione del racconto, quindi devono essere dei documentari già pensati dai registi, dai produttori per la sala, ed è il loro destino normale negli altri paesi d'Italia. Allora quello che ci siamo un po' chiesti è perché non vogliamo provarci un po' anche noi. È vero che è molto difficile, da noi non c'è tanto questa cultura, ma possiamo cercare di far sì che le cose un po' cambino. Questo diciamo è il motivo che ci spinge ad aver fatto una selezione diciamo di film e di portarli al pubblico, perché ovviamente noi pensiamo, primi sappiamo che un bel film è godibile in sala meglio che altrove, meglio che a casa, meglio che su PC e meglio che negli altri modi, sì, insomma. Sì. La magia della sala, insomma, strega chiunque, anche noi. Sì, il primo della serie è questo documentario, L'Impostore. Cos'è L'Impostore, esatto. Anastasia? Allora, L'Impostore peraltro è proprio un esempio di come il documentario possa essere tantissime cose insieme, di come il genere documentario in sé possa contenere tantissimi altri generi. È un film d'esordio peraltro di un bravissimo regista, si chiama Bart Layton, che ha vinto tutti i premi possibili in Europa, compreso il BAFTA come miglior opera prima, ed è un noir, un thriller, un documentario non documentario, un esempio di come appunto si possa raccontare una storia vera utilizzando gli strumenti della finzione, gli strumenti della suspense. È una macchina narrativa infallibile, è veramente un capolavoro di montaggio e anche di montaggio del suono, che consiglio di vedere anche per veramente come esempio di costruzione cinematografica, come esempio di potenzialità del genere. Lui regista dissemina degli indizi e la storia è raccontata passo passo, è svelata piano piano, e fino alla fine non sai di cosa stiamo parlando, non sai chi è che cosa. È un thriller, c'è scritto tutto al contrario di tutto, perché effettivamente è difficile da definire, è un film molto difficile da definire, che in Inghilterra ha avuto un successo strepitoso in sala, stiamo parlando di oltre 1 milione di sterline, che per noi insomma ha fatto ridere, ed è stato lanciato, mi diceva proprio il regista con cui ho parlato quando è venuto in Italia poche settimane fa, che non è stato assolutamente presentato come documentario, è stato presentato come un film, tratto dalla realtà ovviamente, e così è stato, insomma, e chi lo vedrà si renderà conto anche dei motivi per cui si possa confondere un po', territori siano così attivi e così vicini e così intercambiabili. Comunque tutto si svolge, se non sbaglio, in America, e si parla della sparizione e poi della ricomparsa di una persona. Esatto, più o meno. Che dovrebbe essere la stessa persona, però non è la stessa. un ragazzino di 13 anni scompare in Texas e ricompare, o lui o forse non lui, 3 anni e mezzo dopo in Spagna, salvo che ha 10 anni di più, gli occhi marroni e lo scomparso li aveva azzurri, ha i capelli scuri e l'altro l'aveva biondi, e viene comunque accolto dalla famiglia con grande entusiasmo e grande amore, della famiglia che stava ricercando lo scomparso da allora apparentemente. Poi ovviamente le cose non sono così semplici, se no il regista sarebbe troppo bravo a tenere incollate le sedie per 90 minuti gli spettatori, le cose si complicano e le identità si sovrappongono, tutti sono del contrario di tutti, non c'è più nessuna sicurezza, nessuna garanzia, è come hanno scritto un monumento alla menzogna questo film, non si sa più chi dica la verità e perché, insomma, è un labirinto, sì, sì. Che poi tra l'altro stavo pensando che di film su persone scomparse e ricomparse ce ne sono stati anche di grande livello, parecchi. L'ultimo che mi ricordo in questo senso per esempio è Somersby con Richard Gere, sì. E insomma mi sembra piuttosto avvincente come trama, comunque, tanto più che è una storia vera, insomma. Sì, è incredibile il fatto che sia una storia vera, e vedendo film perdi anche quella sicurezza. Io l'ho visto più volte e a un certo punto dopo è una cosa che ti rimane dentro, dopo un po' quando ho visto il regista ho sentito l'esigenza di dire ma lui quello che parla, cioè l'intervistato è lui, non è la, perché ci sono delle parti, solo delle parti che sono, mettono in scena i sogni, i pensieri dei protagonisti, in particolare dell'impostore cosiddetto camaleonte, che sono, utilizzano invece degli attori, sono degli attori, quindi alla fine dopo averlo visto comunque non sei mai sicuro e c'è sempre qualcosa da scoprire, un elemento in più che ti, no, davvero è strabiliante. E poi hanno scritto un'altra cosa che mi è piaciuta, che è dopo aver visto l'impostore qualsiasi altro thriller ti sembrerà tipo la favola della buonanotte, questa è un'altra cosa carina, però è vero, nel senso che è piuttosto agghiacciante. Non vi svelo, perché non voglio, il colpo di scena finale, che c'è un colpo di scena alla fine che ribalta tutto quello che uno fino in quel momento ha creduto fermamente, insomma. È così. E quindi esordite proprio con questo titolo, in quante copie uscirete, Anastasia? Allora, ci ripresenti che abbiamo già organizzato delle sorte di anteprime aperti al pubblico, nel senso oltre alle anteprime solite della stampa abbiamo organizzato già in 5 città una serata in cui il film veniva appunto mostrato al pubblico in anteprima. Questo è già successo, quindi diciamo in 5 città il film si è già visto, in alcune di queste città è stato ripreso in finitura da oggi, e parliamo di Milano, Roma, Trieste e Torino, e altre invece lo ripenseranno però sempre nella formula una serata, perché ovviamente diciamo, c'è sempre un po' di paura per prendere il documentario e tenerlo tanto in sala da parte dell'esercente, ha un po' di paura perché effettivamente il pubblico non è tanto abituato ad andare a sala a vedere questo genere, quindi io anche capisco. Sì, fatto sta. Che il risultato è che venerdì ad esempio sarà a Napoli un giorno, poi a memoria a Firenze hanno già proiettato in costante prima e verrà riproposto, però insomma macchia di leopardo in varie città d'Italia. Ok, e senti, a questo punto diamo anche dei riferimenti online per chi volesse avere maggiori informazioni. Allora, direi che quindi andare a guardare sul nostro sito, che è www.realcinema.it, la pagina, noi stiamo lavorando molto con le pagine locali dei singoli cinema, oppure naturalmente io sono molto attiva con la mia pagina di responsabile un cinema, ma le pagine di cinema sono il Cinema Beltrade, il Cinema Chino, il Cinema Ariston di Trieste, e comunque il sito Feltrinelli, diciamo, è il punto di riferimento da cui partire. Bene, bene. Allora, L'Impostore da oggi in sala giovedì 20 marzo. Anastasia, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Anastasia Plazzotta di Feltrinelli, Real Cinema, sul documentario L'Impostore. Un bel ritrovato anche a Gianluca Guzzo di My Movies per parlare del film Jimmy P, in uscita in sala e anche in streaming su My Movies oggi giovedì 20 marzo. Ben ritrovato Gianluca. Ciao, ciao, buonasera, ciao a tutti. Jimmy P, raccontacelo un po'. Sì, Jimmy P è questa nuova operazione, che è la seconda in realtà che stiamo facendo dopo Spirit 45 di Ken Loach, da oggi su My Movies e su tutte le piattaforme digitali in realtà, e al cinema avremo Jimmy P, il film con Benicio del Toro, il film che ha riscosso un grande successo a Cannes, è finalmente disponibile al cinema e direttamente anche on demand. Questa è la grande novità, quindi possiamo decidere di vederlo al cinema o possiamo decidere di vederlo direttamente a casa dalle piattaforme digitali. mymovies.it chiaramente a euro 3,99 euro. Stasera avremo il live, come sai, insomma, noi facciamo questa operazione di visione collettiva e alle 21:30 sarà possibile vedere il film tutti insieme nello stesso momento, così lo possiamo raccontare, ce lo possiamo gustare tutti insieme, raccontarcelo prima e dopo durante la visione del film. Per sommi capi, la trama, Gianluca? Sì, la fine della Seconda Guerra Mondiale, Jimmy Picard è un nativo americano che ha combattuto in Francia e viene ricoverato all'ospedale militare in un istituto specializzato in malattie mentali. Ecco, il caso è molto particolare. Perché insomma in qualche modo viene diagnosticata una schizofrenia, però a un certo punto arriva una persona, un antropologo francese che invece lo aiuta a superare questo suo problema, e da lì nasce una grande amicizia ed un grande incontro. Ecco, quindi tutto l'aspetto legato alla storia di Jimmy Picard cambia un attimo grazie al momento di questo incontro. Un film assolutamente da non perdere. Oggi appunto abbiamo questa grande occasione in più di poterlo vedere anche comodamente. Chiaramente, se riusciamo a trovare un po' più di tempo, andare al cinema anche meglio, però se vogliamo adottare invece una fruizione alternativa, sì, finalmente c'è, c'è questa uscita da Endate, dovremmo approfittarne. Senti Gianluca, ecco, dopo il documentario di Ken Loach, come mai questa seconda scelta e come vi siete innamorati di questo film? Ma in realtà l'operazione è un'operazione pilota che nasce da Wild Bunch. Wild Bunch è la casa di distribuzione internazionale legata alla nostrana BIM. In realtà quindi è un'operazione che viene fatta in collaborazione con BIM e con Wild Bunch. Infatti l'operazione si chiama proprio Speed Bunch ed è finanziata dall'Unione Europea. In realtà non siamo noi a scegliere i film, okay. Le operazioni sono appunto state definite a monte e parliamo di 4 titoli. I primi 2 li abbiamo già visti e cioè, questo lo vedremo da oggi a nei prossimi giorni. Abbiamo avuto il calcio, come giustamente dicevi, e entro i prossimi 12 mesi verranno lanciati altri 2 titoli. I paesi coinvolti sono la Francia, l'Italia, la Germania e la Spagna. Mm-hmm. Ecco, questa è un po' l'operazione che si sta cercando di fare, proprio cercare di sensibilizzare il pubblico e anche esercenti, se vogliamo, verso questo sistema che chiaramente non cannibalizza le fruizioni di un formato piuttosto che un altro, se non invece completare l'offerta. Quindi è assolutamente una grande opportunità per l'industria cinematografica. Quindi questi esperimenti servono per fare un po' capire che è un'opportunità più che un pericolo di cambio di rotta, insomma, o una killer app, come per usare un termine utilizzato tantissimo nell'informatica e comunque nelle attività che hanno cambiato totalmente il modo di fruire o il modo di fare delle cose. Oh, io non ho avuto ancora modo di vederlo, però una curiosità mi viene: come, in che maniera è affrontata e mostrata la figura del nativo americano? Beh, il nativo americano dell'epoca non è visto bene, chiaramente è una differenza importante, si nota ancora la distanza, della persona che è comunque nativo americano, Blackfoot, quindi un indiano fondamentalmente, e tutto questo si vede, quindi tutta la parte del razzismo legata a quei tempi chiaramente nel film si vede e lo puoi notare fino all'arrivo appunto del francese psicologo, che invece ha tutto un altro atteggiamento nei confronti di Jim Picard, che invece lo affronta completamente in un altro modo, e fra i due nasce una grande amicizia. Mm-hmm. Ecco, questo è quello che poi si riuscirà a vedere nel film. C'è un testo di riferimento per la sceneggiatura o è originale? Questo non lo so. Mm-hmm. In realtà questo non lo so, ma è tratto da una storia vera. Quindi non so se è stato fatto un libro precedente al film, ma è tratto da una storia vera, sì. Bene. Allora, da oggi sia in sala che in streaming, Jimmy P. Gianluca, io ti ringrazio, a risentirci presto. A prestissimo e alla prossima, insomma, ce ne sono altre 2 da raccontare, insomma, tutte le altre cose che vedremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Ciao, ciao Gianluca. A presto, buona giornata. Per te, ciao. Parliamo ora di OPG, lo facciamo con Francesco Cordio, regista del documentario Lo Stato della Follia, che sarà qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, da domenica 23 fino al 26 marzo. Francesco, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Sto iniziando questa impresa di distribuire praticamente da solo il film in tutta Italia. È un film un po' difficile, non ha trovato una, già per i documentari è difficile riuscire a entrare nelle sale dei circuiti dei cinema, e faticosamente, ma con risultati eccellenti, devo dire, sono riuscito a costruire un bel tour da Milano a Palermo, passando appunto per Roma, con quattro serate al Cinema Aquila. Quindi va bene, direi. Si parla di ospedali psichiatrici e giudiziari, sono sei strutture in Italia, una sola permette la dignità alla persona reclusa. Dovevano essere chiusi a marzo dello scorso anno, dovevano essere chiusi a marzo di quest'anno. La decisione, a causa soprattutto delle regioni, è slittata al 2017, vero Francesco? Sì, è così. Il lavoro della commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale aveva fatto sì che con un emendamento nel 2013 si sarebbero dovuti chiudere questi sei luoghi, queste strutture orribili che lo Stato gestisce attraverso il Ministero della Sanità e il Ministero della Giustizia, e per essere sostituiti da strutture più piccole e regionali che potessero ospitare al massimo una ventina di internati, seguiti molto di più dal punto di vista sanitario, ma purtroppo i ritardi delle regioni ad accedere a finanziamenti che erano stati decisi, stanziati, ha dato luogo a questa proroga ulteriore. L'unico ospedale psichiatrico giudiziario che si salva, un po' accennavi tu, è quello di Castiglione delle Stiviere, e che, se volessimo proprio fare una classifica, in effetti potrebbe essere il primo, ma comunque è una struttura pensata male che non risolve il problema. Certo. Francesco, un inferno per i reclusi, lo vediamo nel tuo lavoro, e come si sostiene da tempo, lo stato di una civiltà, di una nazione, si vede da come gestisce le proprie carceri e dallo stato delle proprie carceri, e così si vede benissimo per quanto riguarda gli OPG, ma poi una continuità in quello che sono stati poi i lager che rappresentano i CIE, insomma la continuità sembra essere oggettivamente quella. Sì, assolutamente, se è assolutamente così. Se poi si pensa che questi istituti, più che luoghi di reclusione, debbano essere luoghi in cui viene recuperato dal punto di vista della salute una persona che, incapace di intendere e volere, ha commesso un reato, questo è ancora più grave, perché lo Stato, le persone che appunto in uno stato di incapacità di intendere e volere compiono un crimine, piccolo o grande che sia, non li processa, questo è il percorso, e vengono inviati presso queste strutture, dove attraverso misure di sicurezza di 2, 5 o 10 anni devono riuscire a recuperare le persone, per poi, si spera, farle uscire. In realtà le misure di sicurezza vengono prorogate di 6 mesi in 6 mesi, di anno in anno, fino a procurare quello che viene chiamato poi l'ergastolo bianco, cioè la reclusione, l'internamento per tutta la vita. Per fortuna, per quanto riguarda gli OPG, c'è stata una commissione d'inchiesta che ha fatto visita in tutte e sei le strutture e non ha potuto far altro che verificare le condizioni disumane di trattamento. Sì, è così, ed erano a tal punto scioccati che, segnalando la cosa al Presidente della Repubblica Napolitano, lo stesso Napolitano chiese alla commissione di documentare con video quello che gli stavano riferendo a voce. Così la commissione mi convocò e affidò l'incarico di fare le riprese proprio a seguito della commissione, quindi con dei veri e propri blitz. Siamo entrati in questi luoghi senza alcun preavviso e filmando quello che ci si poneva di fronte. Ecco, una delle cose che fa più impressione nel tuo documentario è la lucidità disperata di molti dei reclusi. Sì, molti hanno la fortuna, la capacità di tenere un briciolo di lucidità all'interno di questi luoghi, e la cosa che li salva. Io poi, durante il mio lavoro, ho avuto occasione di incontrare e conoscere un ex internato che è un attore che si chiama Luigi Rigoni, e ho fatto raccontare a lui la sua storia, che ha rievocato, dell'internamento ad Aversa di circa 2 anni, e in un teatro molto bello dell'Ottocento, il Teatro di Todi, e attraverso il suo racconto si snodano poi le immagini che ho ripreso dentro gli ospedali psichiatrici. Allora, visto che hai intrapreso questo viaggio con la commissione d'inchiesta, e quindi hai verificato con mano e soprattutto con una telecamera quello che succedeva e le condizioni in cui si trovano queste persone, volevo chiederti qual è il problema di fondo che sta alla base della gestione di queste strutture gestite poi in questo modo, e poi quali sono, a tuo modo di vedere, le soluzioni, anche se nel documentario insomma un indirizzo si nota rispetto a un futuro praticabile. L'indirizzo forse viene suggerito da questa struttura di Castiglione delle Stiviere, che è quella più umana. Ecco, quello che manca assolutamente in queste strutture, a parte la clamorosa, evidentissima fatiscenza delle strutture, dei letti, dei vetri, delle finestre, dei termosifoni che non funzionano, dei servizi antincendio che non funzionano, e oltre a tutto ciò è l'inumanità in cui vengono abbandonati gli internati, con pochissima assistenza sanitaria, e purtroppo sul territorio le alternative non sono ancora così valide. Cioè, il magistrato che decide di inviare in OPG una persona che ha compiuto un reato potrebbe avere delle alternative sul territorio, ma esse non sono ancora valorizzate. Mm-hmm. E quindi, piuttosto che avviarli a percorsi incerti, spesso la magistratura preferisce inviare in OPG le persone. Sì, come dicevi te, poi i criteri sono piuttosto drammaticamente semplici: l'aver commesso un reato e la pericolosità sociale. Sì, esatto. L'aver commesso un reato, che può essere davvero da fare la pipì su un muro in una piazza, a vestirsi da donna davanti a una scuola, o fare una rapina con una mano sotto il maglione a mimare la pistola. Ho conosciuto una persona che proprio per questo reato è recluso, internato da circa 20 anni. E tra l'altro uno degli internati racconta dei vari casi di suicidio. Si parla dei suicidi, e purtroppo, tra l'altro, tra i miei intervistati, proprio uno dei più lucidi di quelli che ho intervistato e che mi è capitato di incontrare nell'OPG di Reggio Emilia, dopo pochi mesi ha deciso di togliersi la vita. Il film è dedicato proprio a lui e a quelli che dentro l'OPG non hanno avuto la forza di resistere e di uscire da lì. Lui diceva nell'intervista: l'uomo è un animale che può abituarsi a tutto, qua viene messo a dura prova. Mm. E in effetti lui poi non ce l'ha fatta. Francesco, al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma, 4 giorni, dal 23 al 26 marzo, e invece per saperne di più online ci lasci dei riferimenti? Sì, c'è un sito www.lostatodellafollia.it e poi una pagina Facebook molto ben fatta, con gli aggiornamenti costanti. Ti ringrazio, un abbraccio, complimenti, a risentirci presto, Francesco. Grazie a te, a presto. Ciao, ciao Federico. Ciao. Francesco Cordio, regista del documentario Lo Stato della Follia. Elisabetta Lodoli, regista del documentario Stolica, Sedia, che ha cominciato il suo tour in giro per l'Italia il 6 marzo scorso, ma già domani c'è una nuova data. Elisabetta, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Il documentario si chiama Stolizza. Stolizza, scusami, è vero. È la lingua, è no? Vero, è vero, è vero. È la lingua... È vero. Serbo, croata, bosniaca. Esatto. Che vuol dire sedia. Esatto. Allora, un doppio titolo che già la dice lunga. Raccontaci un po' questa storia, Elisabetta. Ma il documentario racconta sono delle testimonianze di a 20 anni dalla fine della guerra in Bosnia. E diciamo una parte dedicata al passato, a come questi testimoni, uomini e donne di generazioni diverse, hanno vissuto la guerra, e una parte anche sul presente, su che cosa sta succedendo oggi in Bosnia. E il film è stato girato nell'estate del 2012, e quali sono le prospettive. Senti, abbiamo scelto, ecco, dei testimoni, sì, particolari, ecco. E vale a dire quella parte di bosniaci che, nonostante la terribile esperienza che hanno trascorso, sono ancora, diciamo, aperti e speranzosi che qualcosa in Bosnia possa cambiare. Come nasce l'idea di questo documentario? Il documentario è nato, io insegno anche in un'università americana qui a Roma che si chiama IS Abroad. Il direttore, allora nel 2012, della scuola aveva organizzato un viaggio, un case study, uno studio, un approfondimento sulla Bosnia per dei professori che venivano da varie parti del mondo, tutti però parlanti lingua inglese, che si occupano di trasformazione dei conflitti. Quindi chi veniva dal Sudafrica, chi dall'Africa, dall'Irlanda, insomma tutti docenti interessati ad analizzare la trasformazione dei conflitti dopo la fine dei conflitti in diversi paesi del mondo, e quindi volevano fare questo approfondimento sulla Bosnia. Non era previsto un documentario all'inizio, ma quando Ottavio Di Leo, che è appunto il produttore esecutivo e anche, diciamo, il coautore del documentario, si è reso conto che avevo un extra budget, mi ha chiesto, essendo io insegnante di cinema e di documentario, se volevo provare a riprendere questi incontri. Quindi è nato così, in un modo così molto, molto poco preparato all'inizio e inatteso. E siamo andati all'avventura, ho detto io sono pronta, quindi sapevo che avrei potuto girare solo 6 giorni, mi sono preparata, sono andata alla prima, ho incontrato le persone che mi avrebbero aiutato a incontrare le varie persone disponibili a essere intervistate, quindi c'è stato un po' di lavoro di preparazione, poi 6 giorni di riprese, non un'ora in più, e poi invece un po' più di tempo per il montaggio, che ho montato con Mario Marone qui a Roma per almeno 2 o 3 mesi. Una domanda, un doppio aspetto mi interessava sapere, le cicatrici che ha lasciato il conflitto, e dall'altra parte la cura della memoria rispetto a quanto è successo. Allora, le cicatrici che ha lasciato sono immense, perché non c'è nessuno in quel paese che non abbia sofferto della guerra. Ora, la situazione della Bosnia rispetto agli altri paesi dell'ex Jugoslavia è stata così più violenta, perché negli altri paesi c'è stata la guerra, ma in Croazia l'hanno fermata subito, la Slovenia anche è iniziata, è stata la prima, però all'anno la Germania è intervenuta subito a aiutarli, ha detto fine della storia. In Bosnia veramente hanno lasciato che si facessero del gran male, forse perché era il paese più mescolato fra le varie cosiddette etnie, e forse perché anche era il paese con una fortissima presenza musulmana. E questo non vuol dire che poi i musulmani a loro volta non abbiano fatto campi, insomma lì, diciamo, c'è una responsabilità. Chi ha iniziato è stata sicuramente la Serbia, che non ha accettato che la Bosnia si autodefinisse paese indipendente, quindi ha pensato che la Bosnia doveva essere territorio serbo, ecco. Però no, le ferite, ecco, quindi sai, quando le persone hanno vissuto insieme, si sono conosciute e diventano improvvisamente nemici uno all'altro, tu capisci che è una guerra fratricida, quindi le ferite sono immense. Quando sono ferite, perché i morti sono stati tantissimi, Sarajevo, seduta lì, è stata sotto assedio per 5 anni. L'Europa non è stata in grado di fermare quella cosa tremenda per 5 anni, ed è una città europea, insomma, era questo anche che colpisce. E l'altra domanda era la cura della memoria rispetto della a quanto memoria. È avvenuto. Ecco, la cura della memoria, le persone, una parte delle persone che ho intervistato, proprio quelle che parlano di più del dolore e dell'esperienza della guerra che l'hanno subita, sono persone che hanno avuto la necessità di superare il trauma della guerra attraverso degli incontri, dei seminari che sono organizzati, in questo caso quelli che ho incontrato io, dai cattolici, che stanno facendo veramente un ottimo lavoro, nel senso che offrono l'appoggio psicologico, l'appoggio umano, perché si possa narrare questa, no? Dar voce a ciò che si è subito, in questo modo, in qualche modo elaborarlo fin dove possibile, ovviamente. Quindi le persone che e questo per due motivi, non solo per un motivo terapeutico individuale, ma anche per far sì che l'esperienza della guerra non venga negata e che diventi appunto testimonianza, memoria, che possa servire alle future generazioni per non ricommettere questi errori. Certo che la storia ci dice che abbiamo fatto veramente poca memoria di quello che è successo nel passato, perché là si è ripetuto esattamente quello che era successo nella seconda guerra mondiale. Ci sono stati dei campi di concentramento in Bosnia, non costruiti come campi di prigionia, gli alberghi sono diventati dei campi di concentramento, gli alberghi vuoti, insomma, dove sono state sequestrate le donne, è successo veramente qualsiasi cosa. Però ecco, la memoria di questo, certo, ci lavorano, ci sono le associazioni degli ex prigionieri, ci sono le associazioni che hanno comunque che aiutano ad elaborare il trauma e nello stesso tempo a far sì che chi poi se la sente diventi un testimone che può andare nelle scuole, nei centri a parlare appunto di che cosa è stata la guerra, e di solito lo fanno proprio perché c'è una divisione, una pretesa forzata divisione etnica, lo fanno di solito uno per ogni etnia, cioè tutti bosniaci, ma chi musulmano, chi serbo, chi croato. Un'ultima domanda, Elisabetta, il superamento invece in avanti, com'è oggi, dove sta andando la Serbia? Allora, guarda, dove sta andando? Il paese è, che forse è uno dei più lunghi dopoguerra che si conoscano, perché sono passati 20 anni e continuano a parlare di guerra, di quello che hanno subito, e le ragioni sono tante, sfaccettate. È un paese povero che produce poco, a parte alcune industrie, quindi gli aiuti esterni sono misurati, e chi sta dando molto aiuto invece sono, l'aiuto maggiore viene dagli Emirati Arabi, dai paesi arabi e dalla Turchia. L'Europa da meno, in questo commettendo un grossissimo errore, perché sta permettendo che il rischio che corre la Bosnia è, da un lato, di diventare veramente quella che è sempre stata la porta ad oriente dell'Europa, ma facendo entrare l'Islam, la cultura islamica fondamentalista anche, quindi questo è un rischio. E dal punto di vista, cosa ha deciso? I trattati di pace, che sono stati forzati e sono stati fatti in America, hanno deciso che comunque la Bosnia è divisa in due cantoni, uno che è perché ancora le differenze esistono, quindi c'è il cantone dove sono raggruppati i bosniaci di origine serba e un altro cantone con a capo Sarajevo dove ci sono per la maggioranza musulmani e anche i croati. Quindi la divisione etnica ancora funziona e la politica fa leva su questo per tenere le persone separate. Un paese poverissimo, c'è pochissimo lavoro ed è un paese appunto messo molto male, con grossi interventi dall'estero, ma molti appunto di ovviamente legati a degli interessi particolari. A questo punto ti chiedo, visto che è cominciato il tour il 6 marzo scorso, ma la prossima data è già domani 21, dove si può vedere il calendario di proiezioni per Stolica? Allora, guardi altrove, c'è un comunicato stampa che gira, però io posso dire che si vedrà il 21 a Milano, domani sera alle 10 allo spazio Oberdan, si vedrà alla Casa del Cinema a Venezia alle 5 del pomeriggio del mercoledì del 26, è un mercoledì, vorrei non sbagliarmi, e il giovedì 27 alle 21 a Padova. Non mi ricordo in questo momento. Però ci puoi lasciare dei riferimenti internet per saperne di più. Posso lasciare degli riferimenti? Sì, c'è lo scrittoio. Sì. Dovrebbe avere tutto. Benissimo. Sì, lo scrittoio tutto. C'è anche una proiezione streaming su My Movies sabato, non per le città dove il film va, ecco. Benissimo. Elisabetta, guardate su My Movies streaming, lo trovate. Benissimo. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie. Ciao, arrivederci e un abbraccio a te. Elisabetta Lodoli, regista del documentario Stolica, Sedia, in tour dal 6 marzo scorso. Luigi Faccini, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Era ora. Era ora. Come state? Bene, state? Tu? Lavorate sempre, sì. Sì, sì. Allora, con te per parlare della retrospettiva, un film lungo 50 anni, Marina Piperno, sì, e Luigi Faccini al Cinema Trevi, qui a Roma, dal 25 al 28 marzo, ripercorre una lunga carriera cinematografica, no Luigi? Sì, tremendamente lunga si direbbe. Sì, molto lunga, molto lunga. Cominciando nel 64 come critico, con una recensione per Film Critica, che allora era una rivista gloriosa, e scrissi una recensione su un film di Berlanga che si chiamava Il Boia, con Nino Manfredi, un film assolutamente notevole. E da allora, poi è durato pochi anni, nel 67 avevo già finito di fare il critico, poi ho cominciato a rischiare il mio nome, quindi, però insomma il mio atto di nascita come cineasta è quello. Senti, quindi Luigi, da allora sono 50 anni esatti. 50 anni esatti, quante sono le opere che presenterete in questa 4 giorni? Dunque, su un curriculum fra film, documentari e libri che enumera 80 titoli, ne presentiamo 11. E a questo elenco mancano un pochino i documentari antropologici, che sono quelli poi ai quali sono più affezionato, sono quelli attraverso i quali sono stato più in mezzo alla gente proprio, insomma, mi sono speso proprio in termini relazionali. E però insomma ci sono tutti i lungometraggi e poi soprattutto ci sono gli ultimi film fatti in digitale, perché sono 15 anni che lavoro da solo in digitale. Faccio la fotografia, faccio le immagini, faccio il suono e quando mi scappa faccio anche l'elettricista, il macchinista, il truccatore, cioè, l'amico, il confidente, faccio tutte queste cose, mi diverto, devo dire, molto, fatico anche molto, faccio tutti gli errori che ho sempre rimproverato ai miei collaboratori. E però è un second life, come dire, perché io ho sempre lavorato su un astro, fin dall'inizio proprio, e però questo comporta, questa ultima fase comporta una responsabilità molto maggiore, perché tu metti una persona in scena E a quel punto, perché io lavoro anche non solo in temi di ricerca documentaristica, ma anche in temi di fiction. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, il tempo scorre diversamente, la relazione con il tuo oggetto è diverso, insomma, c'è un erotismo anche più immediato, no? Quando sei sul set con 40 persone di troupe attorno, è come dire, devi anche un po' recitare, è tutto un po' finto, no? E mentre quando lavori da solo e ti guardi negli occhi con la tua preda, beh, insomma, la responsabilità e anche appunto l'erotismo e l'affettività sono molto più forti. Mm-hmm. Luigi, ci sono anche un paio di eventi legati alla rassegna, mi dicevi? Sì, nel senso che essendo io un cineasta che scrive anche non solo le sceneggiature dei film ma anche romanzi, saggi, eccetera, se la rassegna si chiude il 28 con una giornata totalmente dedicata a Don Andrea Gallo. Sì. Il prete genovese che è morto a maggio scorso del 13, che è stato un grande amico di Marina Piperno e mio, e per il quale abbiamo fatto due ritratti video che si chiamano Andrea 16 e Fiore Pungente, che non è lui ma è la Costituzione italiana. Abbiamo fatto un libro che si chiamava Trafficanti di sogni. E poi l'estate scorsa Guanda mi ha chiesto di fare un libro su di lui e io ci ho lavorato tutta l'estate, è uscito proprio in questi giorni, che si chiama Ama e fa ciò che vuoi. È un titolo che echeggia una frase di Sant'Agostino, e io che sono ateo confesso e amico di questo prete e anche di altri preti di Barricata, come ne ho incontrati alcuni nella mia vita, e ho fatto un libro che mi hanno detto anche dal punto di vista teologico è molto forte, e quindi insomma ho anche fatto questa esperienza da teologo in pectore, ma insomma così. Bene, allora Luigi, per quanto riguarda il programma, noi rimandiamo al Cinema Trevi qui a Roma per la rassegna dal 25 al 28 marzo, e poi se hai dei riferimenti internet tuoi dacceli pure. Sì, questi ti posso, non so quali sono, ma insomma se mi viene in mente qualcosa, ma semmai vi raccomando di parlare di questo libro che è uscito adesso per Mimesis, che si chiama Barricate di carta. Sì. Che è un libro antologico su due riviste gloriose, secondo me una di più e più importante, che era Cinema e Film, che uscì fondata da me e da altre persone nel 1966, che aveva come tutore, come padre putativo, aveva due personalità grandi che erano Pierpaolo Pasolini e Roland Barthes, che fu poi pubblicata, editata e distribuita da Garzanti, e che è la rivista che ha introdotto la semiologia e lo strutturalismo applicati allo del film, del cinema. Mm-hmm. E poi Ombre Rosse, che era una rivista uscita un anno dopo, nel 67, a cavallo del 68 a Torino, parallelamente al movimento studentesco e all'alleanza studenti operai eccetera, di lontana memoria, ma come dire, è un libro in cui che ripubblica alcuni saggi più importanti e naturalmente va a pescare in quella che è anche una cosa di cui spesso non si parla, cioè anche la critica ha una sua storia, ha una sua provenienza, ha suoi errori, ha sue virtù, e quindi è un libro importante anche dal titolo, che si chiama Barricate di carta, che vuol dire che possono incendiarsi o crollare in niente, ma tuttavia sono barricati, cioè sono un ostacolo all'accademia, un ostacolo alle convenzioni, a tutto quello che allora era la critica, che allora si chiamava di gusto, no? Sì. C'era qualcuno che scriveva bene, scriveva in bella scrittura dei film, ma non era critica, era l'Elzeviro, e noi ci scagliamo contro questo tipo di cinematografia critica, come dire, di gusto che era, no? Arrivava un signore con molta cultura, amava Proust e naturalmente tutti i film passavano attraverso il filtro di Proust, e noi invece facciamo un discorso tipico, metterci sul piano proprio della materialità del film, le inquadrature, la durata, le distanze, gli angoli visuali, luci, il montaggio, i ritmi, e quindi studiamo il cinema come poi dopo è stato studiato nei vari DAMS e anche al centro sperimentali, ma ce lo siamo inventati noi, proprio in modo di raggio. Mm-hmm. perché sapevamo che per studiare un linguaggio bisogna partire dalla sua materialità, mm-hmm. da ciò che dice, dal come lo dice, prima di arrivare a che. Ti sto un po' perdendo, Luigi. Pronto? Dica. Eccoci. Beh, allora, ti stavamo perdendo nel finale. Domande, a questo punto io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento alla Sala Trevi qui a Roma dal 25 al 28. Sì. Un abbraccio e alla prossima, speriamo presto. Anche a te, buon lavoro. Ciao, ciao Luigi. Ciao. Ed era l'ultimo per quanto riguarda Visionari di questa settimana. Torniamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. I riferimenti li trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia su Facebook, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.